Unendosi al coro, anche i cattolici festeggiano l'avvento della televisione italiana e forse intonando più forte di altri, non si capisce bene se per ipocrisia, per stupidità o per furbizia, sui loro giornali dicono a tutta pagina che la televisione da 50 anni è una finestra aperta sul mondo. Contano evidentemente di tenere loro il coltello dalla parte del manico, ma non si lamentino nel caso qualche volta, per il contraddittorio in seno ai potenti, siano costretti a vedere da questa finestra qualcosa che non gli garberà affatto. Può darsi sia una finestra, accettiamo pure la metafora, ma che sia aperta, quando è aperta, su un fondale posticcio, palesemente posticcio, è fuor di dubbio. Fra le dichiarazioni dei commemoranti mi ha particolarmente interessato quella di Fabio Fazio, che nell'autoinvestirsi di paladino dell'anticonformismo ha fatto notare che lui in questi anni di suoi successi e della possibile contraddizione fra successo e anticonformismo Fazio non si cura, che in questi anni si è divertito a togliere le cornici alle istituzioni. L'esempio che fa, a dire il vero, verte sulla metafora al suo minimo sviluppo, perché dice, riferendosi al Festival di Sanremo, che sentendo "buonasera" da questa splendida cornice, mi è venuta voglia di toglierla questa cornice. Ecco, ma quando poi prosegue la spiegazione sul modo con cui ha smontato un'icona, è chiaro, è chiarissimo che la metafora è già salita di grado. L'idea di servirsi del concetto di frame per indagare sui comportamenti sociali in genere e sulle relazioni in pubblico in particolare credo sia da ascriversi ad Erving Goffman. Un suo libro, pubblicato nel 1974 e tradotto un paio di anni or sono in italiano, si intitola per l'appunto Frame Analysis ed è sottotitolato Saggio sull'organizzazione dell'esperienza. In inglese la parola ha vari significati, può stare per struttura, armatura, ossatura, intelaiatura, anche per il telaio della finestra peraltro, e può stare benissimo per l'appunto anche per cornice. La cornice è metaforicamente quella sorta di confine invisibile entro il quale stanno e devono stare le nostre interazioni sociali. Se entriamo dal panettiere non ci comportiamo lo stesso modo che se entrassimo in una libreria. Se parliamo con una persona nota svolgiamo un ordine del giorno ben diverso da quello che svolgeremo parlando con qualcuno che vediamo per la prima volta. Se certe situazioni si ripetono è probabile che si ripetano anche le condizioni al contorno che ne hanno garantito il regolare svolgimento. Se qualcuno fa l'attore e se in quel momento sta recitando, ha, per così dire, convenuto con il suo pubblico un patto implicito in virtù del quale parole e comportamenti non sono addebitabili alla persona, ma al personaggio che sta interpretando. Uno che fa l'attore è Giorgio Panariello, che con il suo spettacolo abbinato alla Lotteria Italia ha riempito parecchi sabati sera di un canale televisivo. Andrebbe ricordato per due motivi. Il primo è che per il più alto tasso di ospiti in camicia nera, che dico, credo dai tempi di Farinacci, De Bono, Ciano Starace e altri della Lega Brigata, abbia mai pullulato in pubbliche adunanze. Il secondo, per lo sbracamento della cornice, mi si passi la metafora della metafora, lo sbracamento della cornice che ha caratterizzato tutti gli sketch, si fa per dire, comici. Si voleva forse accreditare l'idea che il testo fosse così comico che gli stessi attori impegnati ad interpretarlo non resistevano alla sua comicità e o ridevano manifestamente insieme al pubblico o ridevano fra sé e sé nascondendo la faccia fra le mani o girandosi dall'altra parte. Come ormai è facile immaginare, invece, non c'era niente da ridere. Gli sketch erano ripetitivi fino alla nausea, privi di sviluppi narrativi e zeppi di battute avvilenti per l'intera vicenda del genere umano sul pianeta. L'indulgentissimo pubblico rideva e applaudiva sia per le consuete sollecitazioni a ridere e ad applaudire messe in atto dai sagaci organizzatori, sia perché anno dopo anno di cultura televisiva la sua bocca diventa, per così dire, sempre più buona, no? E sia infine per il noto effetto epidemico della risata, che già partita addirittura dagli attori stessi, arrivava immediatamente a destinazione, anche senza averci alcun rapporto con quel testo che in un modo o nell'altro gli attori interpretavano. L'attore entrava in scena e prima ancora di dire che sia, bastava una pausa, stare un momento lì e un riso già soffocato ma non troppo fra sé e sé, ecco che risa e applausi arrivavano puntuali. Non è detto che la rottura delle cornici costituisca di per sé una rovina. Una cornice, ogni cornice, come una tradizione, è pur sempre il risultato di un processo di valorizzazione. C'è un momento in cui, di ripetizione in ripetizione, i significati originari si confondono fino a perdersi e il copione, per così dire, prende la mano agli interpreti. C'è un momento in cui i partecipanti dell'interazione vivacchiano garantiti dalla cornice senza più apportare alcunché di nuovo al testo che sono chiamati ad interpretare. È un momento di inconsapevolezza che può e che per la vitalità stessa del nostro tessuto sociale deve essere denunciato e rovesciato in nuove assunzioni di responsabilità. Non è detto che testimoni soltanto di inettitudini o di viltà, anche se spesso, ecco, allorché è predisposta, allorché è disposta a tavolino, l'uscita da una cornice, insomma, l'uscita da una cornice significa pur sempre il fatto di rientrare in un'altra. La vita sociale degli esseri umani impone cornici individuali, familiari e professionali, tutto un pacchetto di frame da portarsi appresso durante la giornata, in virtù del quale, diciamo, lascia passarla liscia. Faccio il caso del nonno di Darwin, Erasmus, era nato nel 731 ed è morto nell'802. Laureatosi in medicina, ebbe come chiunque altro il problema di ottenere al più presto una convalida sociale delle sue competenze. E tuttavia scriveva poesie che tenne scrupolosamente nascoste per 20 anni. Ora, come dice Giovanni Rasori nella sua prefazione all'edizione italiana della Zoonomia di Erasmus Darwin nel 1834, questo suo ben custodito mistero probabilmente provenne da una importante e giustissima considerazione. Gli bisognava fare il medico pratico e innanzitutto acquistarne la reputazione presso il pubblico, e per venirne a capo eragli forza ad aver gran cura di non esporsi al rimprovero del pluribus intentus, come se l'aggiungersi di un punto di vista indebolisse il primo. Guai al medico, dice ancora Rasori, che non si circoscrivendo entro i più stretti confini dell'arte che esercita e della parca scienza che all'arte il condusse, osò oltrepassarli. Guai se si permettesse di coltivare le lettere, guai ancora maggiori se gli accadesse di tessere acconciamente qualche verso. Gli getteranno la croce addosso. Potrà essere dotto, potrà essere buon scrittore, ottimo oratore, potrà essere anche poeta, ma mai medico. Sono considerazioni di cui, nonostante gli anni che hanno, comprendiamo ancora il senso, perché anche oggi quando i profeti televisivi ci raccontano di quante cornici da cui ci hanno liberato, anche oggi ci sentiamo più prigionieri che mai. Le cornici che contano, quelle che destinano ciascuno di noi ad un quadro e ad un quadro soltanto dove scontare la vita, sembrano infrangibili. E se fai tanto di mettere il naso fuori, te lo tagliano. Che sono sfogliati.